Thank you.

Oh! Thank you. cambieremo tutti. L'animo peso, l'animo peso. Si vendicherò. Puro, stringi il mio petto vero. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.